shit. Funny, I've been taking my bets. Funny, I've been paying my debts. Love it, I've been stealing Corvettes. Stunning, woo, quiet unsaid. Funny, I've been fucked in the head. Funny, I ain't leaving my bed. Love it, the world's been killing me dead. Stunning, killing me, killing me, killing me. I just want to protect my energy. Ain't got no time for the frenemies. Eating my ass like a human centipede. Woo! Hold your horses, pick it up. What's better than two girls, two cups? What's better than a two-bug good night? What's better than fries and a chicken lunch? Hey guys, should I postmate Chuck E. Cheese? Wait, ain't no Chuck E. Cheese in Los Feliz. Wait, there ain't no steez at the increase unless you ordered that sugarfish sushi. Ooh, quiet on set, running. I've been taking my bets, running. I've been paying my debts, loving. I've been stealing Corvettes. A quiet unsaid, run it, I've been fucked in the head. Run it, I ain't leaving my bed. Love it, the work been killing me. Martedì 7 marzo. Ore 19 sta per iniziare sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 e in streaming ondarossa.info la nuova puntata di Likewise. E questa è la puntata di Likewise numero 47. Ne abbiamo inanellate di puntatine. Un'oretta di musica insieme a Donna Sonica e Pinklo. Per la gioia di Donna oggi abbiamo messo quasi tutta la nostra sigla. Remy Wolf, Quiet on Set. 0649175050 se volete chiamarci. Sta per iniziare una nuova puntata di Likewise. Questa è Radio Onda Rossa. Puntatona. Puntatona, un sacco di cose da farvi ascoltare. Narcisismo questa volta. No, puntatona nel senso che abbiamo ascoltato un sacco di cose. Come al solito, un po' di cose che avevamo messo lì, che nelle playlist precedenti non ci azzeccavano tantissimo, che invece si sono infilate in questa. Esatto, quindi siccome sono le 19.02 noi cominciamo. Get out of my house, Mia Folic. You never wanna touch me, you only wanna make me cry. You never ever call me, you think that you can just come by. Then every time I see you, with my mind, get out of primo pezzo di questa scaletta numero 47. Brava, puntuale come lei, staccato. Mia Follick, Get Out of My House. Questo è uno dei due singoli, nuovi singoli usciti quest'anno da questa musicista, che ha annunciato il suo prossimo album che dovrebbe uscire a maggio di quest'anno. A maggio di quest'anno, 13 tracce, sarà il suo secondo disco. Roach è una cantante, autrice, produttrice di Los Angeles, per metà è giapponese e ha imparato a suonare i tamburi taiko in un gruppo di chiesa, perché lei è buddista, comunque quando era piccola era buddista, in qualche, penso lo sia ancora adesso. E quindi interessante, no? Perché mi guardi? No, tutta sta cosa lei. Sì, no, è cresciuta appunto sì come in una famiglia dove si pratica il buddismo, e quindi i tamburi taiko sono una cosa difficilissima da suonare. Immagino, peraltro, quindi super dubbi. Figa nella, diciamo, nel progetto musicale da cui avete ascoltato questo singolo, suona in realtà la chitarra, almeno la chitarra è il suo strumento principale sul palco. Diciamo una manciata di produzioni all'attivo. La prima cosa interessante, il suo EP di debutto risale al 2015, quindi insomma un po' di cose che potete recuperare se non la conoscete. Sì, e il suo invece primo album risale al 2018, poi immaginiamo anche lei infilata tra lunghezze, Covid e cose del genere, ha lavorato a questo disco che è in uscita quest'anno, e lei dice che Get Out of My House è stata una delle prime canzoni che ha scritto per il suo secondo album. Parla di una persona, ma anche di una certa cattiva abitudine, una certa brutta sensazione. Sto dicendo, portateli tutti fuori di casa. È assolutamente un esorcismo, quindi se vi serve all'occasione la potete mettere a cannone nello stereo di casa, potrebbe funzionare. Sì, anche perché insomma una bella energia ed è un bel modo per cominciare questa puntata, insomma molto molto rock classico, insomma con un'impostazione. Sì, devo dire che questo primo pezzo ci stava tutto. Il secondo pezzo di questa scaletta, loro si chiamano Pax, il pezzo si intitola 4th of July. 4th of July, fireworks and fountains, shattered dreams and cotton candy. Yeah. E questa è la 4th of July dal diciamo prossimo album che uscirà a fine mese, il 31 marzo per esattezza, che si intitolerà Crispy Crunchy Nothing, che è la descrizione che fa Madeline Link, che in realtà è la fondatrice della band, che prima non era una band ma che ovviamente adesso lo è diventata, insomma, di questo progetto musicale, e la descrizione che lei fa del morso di una mela ammuffita, sempre queste cose divertenti. E, che dire, loro sono in quattro adesso attualmente, e sono ovviamente lei alla voce, alla scrittura, Dexter Nash alla chitarra, Noel O'Neill al basso e Shane Hope alla batteria. Sì, infatti lei racconta quando le chiedono in intervista come è nata l'idea di questa band, visto che appunto Pax esiste diciamo da prima, e lei dice in realtà non è nata l'idea della band, è che sono andata a suonare, cioè degli amici e delle amiche musiciste, insomma, sono venute ad ascoltarmi a un evento live, hanno detto ma perché non ci fai suonare con te, ti facciamo da diciamo da supporto, tappeto sonoro dietro, e lei ha pensato vabbè, se ve la sentite facciamo, proviamo, funziona molto bene, molto bello questo singolo, e insomma non vedo l'ora di ascoltare il resto dell'album. Sì, lei è di origine canadese, hanno firmato quando poi appunto la band in qualche modo ha preso corpo e forma, hanno fatto qualche singolo, hanno attirato l'attenzione della Fire Talk Records di Brooklyn, hanno firmato per loro, e per loro uscirà appunto questo secondo disco che avrà 14 tracce. Se invece volete farvi un'idea di quello che già era uscito precedentemente, in giro c'è appunto il primo album, che tu non chiameresti album, che si chiama Take the Cake. Prossimo pezzo in scaletta, si chiamano Abracadabra Talk Talk. Bellissimo. Check, check. Oh, questa era Abracadabra, Toc Toc. Immaginate noi che ballavamo qui l'una di fronte all'altra dietro i nostri microfoni, speriamo anche voi. Sunshine Moment. Esatto, questo pezzo tratto dall'album Color and Shapes, uscito poco fa, insomma alla fine di gennaio di quest'anno, e insomma di questo duo di Memphis, credo che siano loro originali, originali, e sono di Oakland. Hai ragione di Oakland in California. Sente la California proprio, tutto questo dove stavamo dicendo prima, i Talking Heads versione California. al mare. Stavi raccontando un po' della loro storia, di come sono, diciamo, come è nato il concetto di questo album, quindi. Sì, allora, ci sono diverse cose carine. Innanzitutto loro si sono conosciuti perché insieme, insomma, a quello che poi sarebbe diventato il suo produttore o coproduttore dei dischi, questo è il secondo, Jason Nick, gli ha chiesto a loro due di suonare l'intero album degli Eurythmics in The Garden per una festa di Halloween proprio appunto ad Oakland. E così si sono conosciuti. A quel punto evidentemente si sono trovati, hanno trovato feeling e hanno iniziato a lavorare insieme. La gestazione di quest'album invece, diciamo che è sempre... è molto particolare, perché noi raccontiamo spesso, integro quello che stai dicendo, raccontiamo spesso le storie di album che sono nati durante il periodo del Covid, quindi durante, insomma, un periodo particolarmente difficile di isolamento, insomma di difficoltà anche economiche, sociali, eccetera. Quindi è interessante che invece questa è una storia un po' negativa, ma che poi si tramuta in questo tipo di musica. Esatto, e insomma è negativa nel senso che Annan lavorava a un salone di parrucchiere durante il Covid a San Francisco, ovviamente come un po' tutti a mesi alterni e diversi ha dovuto chiudere, quindi ovviamente doveva lavorare e si è messa a lavorare, insomma ha fatto la parrucchiera mobile da cortile, e in questo modo, dice, io mi sono dovuta trovare ad ascoltare tantissimi clienti che si lamentavano delle difficoltà del lockdown, mentre però loro vivevano in ville con piscine e spazi enormi senza appunto rendersi conto del loro privilegio. E questa circostanza in qualche modo li ha spinti a fare diverse riflessioni a lei, a Chris Niles, che è il suo compagno, diciamo, musicale. E dice, la nostra società è così disastrata e disfunzionale, che però c'è un questa idea ottimista che non tutto è perduto nella confusione in cui ci troviamo, e quindi è venuto fuori questo disco qua. Quindi per loro sicuramente non tutto è perduto, visto che si sono appunto riavvicinati, rilanciati nella musica anche dopo questo periodo, e quindi è uscito questo bell'album che ha delle sonorità incredibili. Secondo me è un molto ispirato al sound che ci fa venire in mente subito dei Talking Heads, ma con una freschezza notevole, quindi... Sì, perché ci sono le marimba, le congas, i bonghi, i fischietti, da un po' di samba, quindi sì, certo, ha delle sonorità, un bel ibrido, ha delle sonorità molto particolari, e mette anche di buon umore, dai. E mette anche di buon umore, nonostante i temi siano difficili. Questa è Radio Onda Rossa, questa è Likewise. Pinclo. Likewise, @ondarossa.info se volete iscriverci, se no non lo diciamo mai e poi ce lo scordiamo. E abbiamo anche un canale Telegram che usiamo con molta parsimonia, Likewise_TRX. Se volete seguire, mandiamo lì i podcast e notizie che riguardano un po' noi, un po' tutta Radio Onda Rossa. E in sottofondo incombe la voce di MC Yalla, il pezzo si intitola Sick Webla. Yo, the Sick Webla. Yeah, utum zambate, zinzin bentan simbute. Azare stay, like a success, I gotta be day. Mukama chinkate, pangudani a take a tea. Pick a monsumu day, and with a young chimp and toire. Tuba local, I become a viva chamula, you would have a cigarette to Matida, and your mama pull a sting up to Bakula, to Banabola, me to put a fetida vica. Tuba to Arabia Kodidaka, one to the Mesokola, Kipulin Yamadara, Yenemasa Mobitara, Daba Mandara, Ubanayara, Zalimu Butara. Penno tu debutara, mai tu direbbe bakubara. Nella cutuca di andaga, ubien balanze, andabangando kumlama. Serina, kule meredua, kuse kedua, avantu baku non gabogera. Serera, si quevera, kusera, tokwevera. Serera, si quevera, kusera, tokwevera. Nella cutuca di andaga, ubien balanze, andabangando kumlama. Serina, kule meredua, kuse kedua, avantu baku non gabogera. Serera, si quevera, kusera, tokwevera. Serera, si quevera, kusera, tokwevera. Uganda G. ngirambude zogura banga ntambude binju byenda beyo jempita mungendo senkuba olonenjiga baji banda banga tandikanga bango baba nsanga kudomesa wasiringa mugumba de bomesa nyuka banga ngude olonumbye zensonze sida bebe gali kabebe bikonde kaskonda njogira ko mubidula njogira wako tumanyi beba kola na yeto tuva kiganya twaga na mirembe tituaga la kuwala nalo nolimbedo nana tuta nisokulima baka namba sobele baka nikokukolima wachita tuwala na bingamo babi jiria abasanja bakuvuma tebe bakusia tebe bakusia. Yeah, you know kutuka jenda ga kubienda banze ndaba ngandi kumulamwa siri na kulemererwa kusekererwa abantu bakunonga bogera serera sikwebera toserera tokwebera serera sikwebera toserera tokwebera. You know kutuka jenda ga kubienda banze ndaba ngandi kumulamwa siri na kulemererwa kusekererwa abantu bakunonga bogera serera sikwebera toserera tokwebera serera sikwebera toserera tokwebera. Questa era Sick Webla, molto sick, persona che mette insieme le rime e la voce di MC Yalla e Dub Master, che appunto ha creato i beat per la sua voce e per le sue parole. È l'ultimo singolo che è uscito appunto di quest'artista keniana, che però vive in Uganda e diciamo è un'affiliata di questo collettivo, ci dà occasione di parlarne, di questo collettivo che si chiama Niege Niege, che sicuramente avrete sentito, di cui avrete sentito sicuramente parlare, visto che è un collettivo ugandese che raccoglie intorno a questa etichetta un festival che ormai è diventato un festival gigantesco. L'ultima edizione dell'anno scorso ha contato tipo 60.000 persone, quindi insomma una cosa enorme, festival ampiamente osteggiato dal diciamo governo e insomma da tutte le politiche ugandesi, perché ovviamente anche LGBTQI+, quindi insomma potete immaginare la situazione, qual è la situazione in Uganda, e quindi come tutto diventa più difficile, ma appunto festival resistente. Se vi interessa ascoltare, andare a sentire qualcosa di queste produzioni, se non vi è capitato, Niege Niege Tapes si trovano insomma in giro, quindi potete ascoltare le artiste, artistu affiliati e raccolti sotto questa etichetta e sotto la sottoetichetta con la quale esce in realtà MC Yalla, che si chiama Hakuna Kulala. Kulala. Esatto, infatti questo nuovo disco che uscirà il 14 aprile, che appunto conterrà 12 tracce, uscirà per quella che è la subetichetta, diciamo comunque un'etichetta affiliata a quella della principale del collettivo, che è appunto la Hakuna Kulala, e il disco si chiamerà Yalla Baby. Ed è un secondo progetto, diciamo, da quando, perché la storia di MC Yalla è lunga, nel senso che lei ha iniziato a cantare, a rappare da giovanissima, poi a un certo punto invece ha sentito bisogno di altro, quindi ha smesso e ha cresciuto tre figli, però la musica è tornata prepotentemente nella sua vita. In realtà presentava un programma hip hop sulla TV, dove ha conosciuto esattamente uno dei fondatori della Niege Niege, e che le ha presentato tra l'altro poi Dub Master, diciamo le ha presentati a vicenda, Dub Master gli mandava le basi, e infatti così hanno costruito il primo disco che è uscito, che era Kubarli, e hanno lavorato così anche a questo nuovo disco che sta per uscire. Una cosa molto interessante, MC Yalla dice: la musica significa tanto per me, sono convinta di essere nata per questo, mia madre mi portava alla scuola domenicale quando aveva appena 4 anni e durante la settimana non vedevo l'ora di quel giorno per andare lì a cantare. Poi dice: i miei fratelli hanno cominciato a comprare dischi di Tupac, Miss Elliot, i Fio G's, è un lunghissimo elenco che non fa, e lei aveva 7-8 anni, li guardava ballare e cantare e insomma si divertiva molto, si è innamorata così di questa musica. A 10 anni, quando andava a scuola, gli altri andavano a fare ricreazione mentre lei restava sulla cattedra in classe, si metteva sulla cattedra e cantava Ice Ice Baby. Quindi un amore per la musica lunghissimo, e si sente anche una grande attitudine e professionalità. Cercate le sue cose, perché ce ne sono in giro davvero tantissimi, quindi avete voglia spaziale anche prima dell'uscita di questo disco che uscirà il 14 di aprile. È un'altra cosa divertente che racconta in una lunga intervista che potete trovare online, e anche il suo incontro con The Master, che in realtà non è mai avvenuto, nel senso che loro lavorano insieme da un po' di tempo ma non si sono mai incontrati, se non in un live ma dopo un sacco di tempo, e quindi si sono incontrati in realtà attraverso le collaborazioni dei beat da parte di The Master e poi appunto di MC Yalla, che ci ha scritto, ci ha rappato sotto sopra, anzi, e quindi li ha fatti diventare i pezzi che state ascoltando in sottofondo. E tra l'altro appunto c'è questo movimento anche da un punto di vista musicale molto interessante, come dicevi prima, lei parte influenzata sia nelle sue rime che nel suo modo di cantare dall'hip hop, diciamo più americano, quello più occidentale, e invece appunto quello che sentite sotto e il lavoro in generale che trovate sotto questa etichetta e all'interno di questo collettivo è un lavoro anche musicalmente molto diverso, che mette insieme delle sonorità molto particolari, e appunto quindi insomma noi vi invitiamo ad andare a scoprire, a spulciare un po' di cose sì. nuove. E tra l'altro infatti lei non canta adesso, non canta più, comunque non canta solo in inglese, lei canta in Kiswahili, in Luganda, in Luo e in inglese, quindi quando sentite i pezzi probabilmente vi accorgerete che alcune cose non riuscite a captarle, ma perché non è una lingua che padroneggiamo, non sono lingue che padroneggiamo. 19:28, questa è l'Equise Radio Onda Rossa, qui io e Donna Sonica a tenervi compagnia per un po' di musica. Pezzo numero 5 della saletta di stasera, Cujo Kiddies D-I-S-Q. E questa era una bella band che si chiama Disc, D-I-S-Q, come appunto dicevi prima. L'album si intitola Desperately Imagining Someplace Quiet e il pezzo che avete ascoltato è Cujo Kiddos, Kiddis, scusate. Che resteremo col dubbio se è l'acronimo proprio del loro nome della band o chissà un'abbreviazione, non si sì, un po' il titolo dell'album, esatto, gli hanno chiesto in un'intervista e loro dicono, cioè no, che l'album viene dopo e si ispira, hanno pensato di fare una cosa che utilizzasse le lettere del loro, del nome della band, e quindi okay, sì, insomma al contrario essendo il secondo album, sì, insomma hanno cominciato dal nome della band e hanno fatto uscire questo titolo abbastanza interessante, devo dire. Esattamente, il disco è uscito a ottobre dello scorso anno, sono 12 tracce, come diceva Don, il loro secondo disco, sono un quintetto, in realtà ci sono ben tre chitarre, è stato fondato da Isaac che sta alla voce alla chitarra e Rainer Buch che sta a voce basso, e la voce invece della canzone che abbiamo ascoltato era quella di Shannon Connor, che è un'altra chitarrista della band. Hanno all'attivo un disco sempre per la Saddle Creek Records con cui hanno debuttato 3 anni fa, che si chiama Collecto, e diciamo che quindi sono gli inizi più o meno della loro carriera musicale. Sì, diciamo è un sound molto indie rock, molto classico, sì, che si ispira a molte cose diciamo che abbiamo ascoltato negli anni 90. Sicuramente questo album rispetto al primo è un po' più maturo, quindi nonostante diciamo in genere il secondo album è un po' difficile, in realtà si delinea un suono più specifico, più personale, quindi molto interessante, molto interessante. E quindi le aspettavo alla banco di prova del terzo. Come sempre. Likewise sarà qua a un certo punto. No, certo. Ripasseranno da queste parti. Esattamente. E passiamo invece al pezzo numero 6 della scaletta di questa sera, Elizabeth e Drummond, Crisis. I'd rather run into a fire. Questa era Elizabeth M. Drummond, il pezzo si intitolava Crisis, tratto dall'EP Congratulations. È una bella storia anche quella di Elizabeth M. Drummond, che come dicevi in realtà tosta si pure. Fa chiamare Liz, cioè si chiama Liz, ma sì, gli piaceva usare sto nome un po' altisonante solo per prendere un po' in giro. Per prendere un po' in giro l'industria, dice vabbè, facciamo questi nomi tipo Sharon, voilà. No, non so se non volevo dire che lei ha pensato male di qualche collega, però ha detto ora mi do un nome esatto altisonante. Sai, Liz, già le chiamano le ragazze, già non sai suonare, già sei poca roba, insomma ti dà un nome un po' più un così tono. Ecco. Però lei ha una storia abbastanza particolare, anche bella e intensa, nel senso che aveva fondato una band con australiana di Sydney, lei, per inquadrarla. Australiana di Sydney e con altre australiane di Sydney avevano fondato una band, sono Annan Field and Annie Hamilton. E il trio in realtà aveva iniziato anche a avere un abbastanza seguito, facciamo una sorta di folk, di indie folk. Nel 2014 avevano pubblicato un primo EP. E poi il successo stava comunque crescendo, perché sono arrivate negli studi dei The Nation per registrare il loro primo album, e quindi sembrava che tutto stesse prendendo insomma una forma interessante. Solo che Elizabeth insomma gli stava un po' stretto tutto questo, e non è stato facile sia registrare il primo disco, ma poi in realtà è stato molto complicato registrare il secondo, perché lei voleva in qualche modo cominciare a suonare, si sentiva un po' stretta nella band, quindi voleva cominciare a suonare delle cose sue, ha provato a farlo. È tornata nella band perché poi appunto probabilmente anche questioni di contratto e tutto dovevano incidere un secondo disco, ma è stato molto difficile nonostante lei e Annan fossero delle grandi amiche, e insomma a un certo punto ha lasciato la band, non è stato per niente semplice, in realtà ha concluso una relazione sentimentale che lei stessa ha definito tossica e non salutare, e comunque ha avuto un periodo un po' di sbandamento. Lei dice che il mio più grande problema è sempre stata l'ansia, e quindi cioè, c'è stato un periodo in cui insomma con alcol e ansiolitici non è stato semplice, e quindi in realtà è una storia positiva, perché poi alla fine invece ha cambiato città, è arrivata a Melbourne, ha trovato una comunità diciamo di musicisti indie dove si è trovata bene, e in qualche modo è venuto fuori questo lavoro e il precedente EP, e quindi si è rimessa in qualche modo in circolo, in gioco, e la musica è tornata a far parte della sua vita con più serenità, forse. Sì, è interessante la storia di The National, no? La prospettiva, siccome quando racconta in questa intervista che fondamentalmente la collaborazione e l'idea di registrare nello studio diciamo della band, in uno degli studi della band in realtà, insieme ad Aaron Dessner, era proprio una loro idea, cioè loro avevano proprio cercato quella persona che in qualche modo musicalmente sentivano affini a loro, per farsi aiutare a registrare il loro primo lavoro. Però è anche interessante come racconta che trovarsi in questo studio con diciamo tutto questo equipaggiamento, tutti strumenti, effetti eccetera che non appartenevano a loro, in qualche modo è stato straniante, ed era fondamentalmente un lavoro, almeno lei l'ha sentito così, un lavoro che non le apparteneva veramente, perché non era a suo agio in quello che stava facendo, dove lo stava facendo e come lo stava facendo. È una cosa molto importante, perché infatti alla fine poi hanno cambiato studio, perché poi sono andati a registrare diciamo in uno studio più piccolo, sempre di lui, dei The Nation, però tipo casa sua, cioè uno studio diciamo nello studio casalingo e non nello studio che penso loro hanno appunto super acchittato per le registrazioni. La cosa più diciamo che ci fa piacere rispetto a questo diciamo lavoro e anche alla produzione di questo lavoro, insomma alla genesi di questo lavoro, è che la conclusione di Liz è finalmente ho capito che cosa mi rende felice, finalmente sono riuscita a fare quello che mi rende felice e so qual è la mia priorità nella vita, cioè occuparmi di me, che è una grandissima realizzazione, è una presa di coscienza enorme. Noi brava Liz, le auguriamo ogni bene e vi consigliamo di ascoltare appunto questo EP Congratulations. Prossimo pezzo, Pivot Signal, Caitly Aurelia Smith. Vi abbiamo messo a dura prova, questo pezzo era Pivot Signal dell'autrice, musicista, compositrice Caitlin Aurelia Smith. L'ultimo lavoro risale all'anno scorso e si intitola Let's Turn It Into Sound, uscito per la Ghostly International. È una musicista, questa molto giovane, 35-36 anni, ma già all'attivo un sacco di roba, a parte degli studi classici, insomma ne parlavamo nel fuori onda, credo che sia diplomata al Berklee College of Music, poi ingegnera, insomma, del suono, dove ha studiato ingegneria del suono, orchestrazione e composizione al Berklee. Ora in cosa si sia esattamente laureata non lo so, però questa è la storia di sicuro. Insomma, quindi studi classici che l'hanno portata anche all'avvicinarsi e innamorarsi dei sintetizzatori modulari, che avete sentito diciamo in azione in questo pezzo, e tantissime collaborazioni nella sua carriera. Questo che vi diciamo annunciavamo prima era il suo ottavo disco, quindi insomma tante cose da recuperare, anche diciamo più facili di ascolto rispetto a quello che avete ascoltato. No, guarda che sottovaluti il nostro ascoltatrice, i nostri ascoltatori. Secondo me invece dopo un po' entri nel pezzo e inizi questo viaggio. Lei prevalentemente compone esattamente con i sintetizzatori modulari della Buchla, e quelli che usa sono prevalentemente sintetizzatori che hanno ormai quasi di più, sono degli anni 60, quindi hanno più di 60, cioè esatto, pari 60 anni, e infatti non si trovano neanche più tanto in giro. Ed è molto carino perché ha iniziato a suonare la chitarra perché quando ha fatto 14 anni un vicino gliel'ha regalata. Poi l'ha spaccata perché è troppo facile. No, poi sempre con un vicino gli è capitato di dire che era una fan di Terry Riley, e lui gli ha detto: ah, io però nello scantinato c'ho un Buchla 100 degli anni 60, e gliel'ha prestato per più di un anno. Lei ha veramente intrippato, come si direbbe dalle nostre parti, e non li ha più lasciati. E perché non li ha più lasciati? Perché lei stessa dice: c'è molto spazio per gli incidenti felici con un sintetizzatore Buchla, perché non è molto prevedibile. Se si accende una luce nella stanza in cui stai lavorando, se la messa a terra non è corretta o si stai collegando qualcos'altro, all'improvviso qualcosa cambia. E questo mi dà la sensazione, dice Caitlin, di lavorare con una vita, e che ci sia un qualche sorta di biofeedback più che un sintetizzatore prevedibile, quindi diciamo che c'è un dialogo costante e continuo con i sintetizzatori, ed è il motivo per cui probabilmente ne è profondamente innamorata. E ne ha scritto diverse cose, ne ha scritto anche un testo legato a uno dei suoi dischi che sono usciti, non a quest'ultimo da cui abbiamo tratto il pezzo, ma a un disco precedente. Ha avuto diverse collaborazioni, come diceva Donna, tra l'altro tra anche con una delle pioniere dell'utilizzo dei sintetizzatori proprio negli anni 60, perché devo dire, questa cosa però l'avevamo vista anche insieme quando parlavamo di elettronica, che ci sono tantissime musiciste donne che sono state tra le pioniere dell'utilizzo dei sintetizzatori. Ci sono state, esatto. Esattamente, perché lei c'ha 35 anni, li usa con estrema eleganza e anche con molta dedizione e amore, come abbiamo potuto leggere. E chissà che non ci facciamo uno speciale invece qualche volta su questa cosa, perché è molto molto interessante, perché molto spesso donne elettronica dicono: ah, ma no, invece. Ma devo dire che in questa radio, diciamo, nei suoi archivi storici ci sono molti riferimenti, anche perché molte delle nostre predecessore a questi microfoni, insomma, erano appassionate, sono appassionate di musica elettronica e avevano sicuramente più competenze almeno di me, e quindi insomma hanno raccontato molte di queste storie. Ma sì, secondo me dovremmo pensare magari anche di coinvolgerle in qualche racconto. Esatto, no, certo, noi accendiamo i microfoni, se siete all'ascolto scriveteci a like@chiocciolandorossa.info e magari facciamo qualche speciale sulle musiciste elettroniche. Allora, per guardare quello che fa Caitlin Aurelia bis, a parte insomma ricordatevi su Onda Rossa andate a cercare Likewise dove ci sono anche le scalette, così magari recuperate i nomi che vi siete perse durante la trasmissione e potete poi approfondire per conto vostro. C'è un interessante video che potete trovare diciamo sul nell'ambito dei video raccolti da un magazine che si chiama Fact Magazine, che fa vedere proprio Caitlin nel suo studio, quindi con tutti i suoi appunto con questi sintetizzatori, questi moduli che appunto collega, scollega e diciamo e suona, per cui avete, potete proprio visivamente farvi un'idea di quello che è il suo suono, di come nasce. Ci sono anche delle produzioni diverse rispetto a quella che avete sentito adesso, anche remix sia dei pezzi suoi da parte di altre DJ e DJ, ma anche di, appunto pezzi da altri che lei scompone e ricompone utilizzando appunto la sua strumentazione. 19.54, siamo quasi forse un pelino in ritardo, ma ci siamo. Pezzo numero 8 della scaletta di questa sera di Likewise, qui a Radio Onda Rossa, Papa Took My Totems, Cat Clyde. My Totems, Cat Clyde, dall'album Down Rounder uscito lo scorso febbraio. Terzo album di Cat Clyde, giovane musicista che diciamo con la sua chitarra e con la sua, diciamo, le sue composizioni, le sue scritture, secondo me ha un bellissimo sound. Non ho ancora ascoltato i suoi due album precedenti e quindi non so dire che cosa stava facendo prima, quindi come si muoveva in questa, diciamo, composizione, in questo songwriting, ma devo dire che in questo album la cantante canadese gli era molla, esatto, gli spigne, stavo dicendo. Sì, è vero. Adesso tra l'altro penso che si trovi nella mecca della musica country, perché sta vivendo a Nashville, quindi era super super contenta, infatti dichiarava che la musica country è così intensa qui, è molto seria, è molto reale. quindi chissà cosa verrà fuori poi. E sapete che non navighiamo tantissimo questo genere musicale, ma quando troviamo delle musiciste che in qualche modo ne fanno una proposizione anche molto moderna, molto contemporanea e che in qualche modo ci prende, come la canzone che vi abbiamo messo, ci piace farvele ascoltare. Non è il nostro genere preferito, ma sicuramente ci sono tantissime artiste, l'abbiamo visto anche nella scorsa stagione, che navigano questo genere con un approccio totalmente diverso e molto fuori dai canoni classici del country. E come stavamo dicendo nel fuori onda, in realtà appunto anche lei, insomma, un personaggino niente male, non è che ha imbracciato la chitarra così giusto per fare qualcosa, ma insomma ha studi non mi ricordo se è ingegneria del suono, ingegneria di registrazione e produzione, e ha studiato anche business musicale. Vabbè, queste sono cose anche molto americane, se vogliamo. Suona anche il piano e qualcosa si sente anche in questo album, anche se sì, lei di se stessa dice: non sono tanto brava a suonare il piano, quindi non mi chiamate proprio a fare concerti, ecco. Ah beh, non ancora, c'è sempre tempo, appunto. Poi è comunque molto giovane, e era anche lei comunque nata e cresciuta in campagna, in un'area rurale, ha passato molto tempo a camminare e molto tempo nei boschi, e dice che ancora oggi comunque da questo trae molta ispirazione, come il pezzo che sentiamo sotto è molto più country blues, secondo me, per esempio quello che stiamo sentendo sotto, che voi non sentite tantissimo. E siccome se no facciamo tardissimo, Terra Keen Liquid Love. Liquid Love. Wine glass is never enough. Despite my mind. I'll just push you on. Did you spike my mind? 'Cause I'm failing more than I thought I'd feel this time. Did you spike my mind? Did you spike? Questa era la voce di Terra Keen dal suo EP uscito alla fine dell'anno scorso, che si intitola Too Far Gone. Giovanissima musicista, 23enne credo, di Glasgow. Sì, cioè, proprio tutto quello che non vi immaginate che possa uscire da Glasgow è uscito qui, in questo lavoro, nella sua voce, nelle sue composizioni. Che dire di questo EP? Molto, molto jazz, molto, diciamo, come dire, new soul, molto molto morbido, molto, molti racconti intimi personali della, di questa musicista. Bella collaborazione, insomma, con gente che lavora nel jazz da tanti anni e che ha in questa voce, in queste composizioni, diciamo, scommesso con questa produzione. Ne sentiremo sicuramente ancora parlare. Penso che dopo questo EP, tra l'altro lei l'ha firmato con una mega etichetta, Island, quindi insomma, sì, la Island distribuita Universal, quindi grande produzione, probabilmente perché tutto viene dall'ambiente jazz. Aspettiamo il disco, secondo me potrebbe essere molto molto bello. 20.05, pezzo numero 10 della scaletta, se no li mandiamo nel, e pare brutto, pare bruttissimo. Vai. Letting Up Despite Great Faults, il pezzo si intitola Hallway Crooks. E questa era bellissima, Letting Up Despite Great Falls, una band insomma che ha all'attivo tanta tanta musica e tanto tanto insomma una lunga carriera. Il pezzo si titolava Halfway Crooks, vi correggo perché prima l'avevo letto male, ed è tratto dall'EP che uscirà il prossimo aprile, che si intitolerà Crumble. Se volete ascoltare qualcosa di questa band perché vi è piaciuta, io vi consiglio, nella diciamo buona produzione che hanno fatto in questi anni, il primo EP che credo sia del 2009 e che ha il omonimo, e il primo album, scusate, che è del 2009 e che è omonimo, o l'EP Paper Crush che è del 2011, se volete approfondire questa band. E tornando alla nostra sigla, che ci dice che sono le 20.09, quindi noi siamo come al solito un po' in ritardo, ma Note e Cose Città questa sera non trasmettono, quindi vi lasceremo in compagnia dell'automatico, poi alle 21.30 invece ci sarà Semiglia e poi a seguire ci sarà More Fire, quindi restate comunque all'ascolto di Radio Onda Rossa. Vi ricordo che questa radio non campa d'aria, non ha padroni, non ha padrini, non ha pubblicità, non ha sponsor, non ha niente, non ha manco i soldi, esattamente, quindi se potete aiutarci sul sito di Radio Onda Rossa trovate tutti i metodi e i modi per farlo, compreso anche il fatto che potete venire a trovarci qui in radio più magari nelle ore del giorno. Avete i vostri come 50... ha fatto una diciamo un'amica poco prima della trasmissione, è passata qui, ha preso la scarceranda e quindi ha contribuito, oltre a farsi una chiacchierata con noi, ha contribuito materialmente al sostentamento della vostra radio. Esatto, della vostra e della nostra radio. Domani è l'8 marzo, restate anche lì e tornate all'ascolto di Radio Onda Rossa, sarà una mattinata dedicata un po' alle tematiche femministe e transfemministe che ci stanno più a cuore, cercando anche di fare un po' di chiarezza perché vedo tanta confusione. C'è tanta crisi e tanta confusione. Sul sito Onda Rossa potete trovare anche l'intervento sul corteo transfemminista che si terrà domani in Sardegna, quindi corteo transfemminista e antimilitarista, insomma tante cose che ci potete... saranno tante cose, ci saranno tante piazze, quindi Radio Onda Rossa come sempre cercherà di seguire quello che si muove in città e non solo. E sono le 20.11, likewise di questa settimana, martedì 7 marzo si chiude, vi diamo appuntamento alla settimana prossima per una nuova puntata. Ciao, buona serata, ciao.